7. No, di preciso non so ancora niente. L'apertura del testamento avrà luogo soltanto la prossima settimana, ma almeno nel frattempo il mio coerede ha trovato la via e i mezzi per recarsi personalmente sul posto e anche per farvi trasportare le spoglie mortali del vecchio signore. La salma, nel frattempo, era rimasta alla stazione. Cosa che Harry riteneva discutibilissima e che comunque a suo avviso denotava da parte nostra una certa mancanza di riguardo, ma con tutta la nostra buona volontà non abbiamo potuto agire diversamente. Capisco bene che per voi tutto questo sia molto emozionante, ma non posso condividere le vostre reazioni. Preferisco tutto sommato non scaldarmi affatto, poiché la cosa mi danneggia e immancabilmente influenza gli eventi in maniera per me negativa. È stata una coincidenza fortunata il fatto che io sia venuta qui. Devo proprio riconoscere ogni giorno di più i benefici di questo soggiorno e non posso fare altro che dire questo. L'unico posto che veramente si adatta all'attesa di un'eredità è la casa di cura del Monte Verità. Dalla terapia mi sono parecchio emancipata, non ce la facevo più a sopportarla. Così ho chiarito al professore che la mia insonnia si era convertita nel suo opposto e che ora soffrivo invece di una voglia incontenibile di dormire. Tutto questo perché mi fossero risparmiati i suoi impacchi e le sue docciature. L'ho pregato, inoltre, di concedermi un po' più di libertà di movimento, giacché, dovendo occuparmi di un intricato processo relativo a un'eredità, dovevo recarmi in città con una certa frequenza per consigliarmi con un avvocato. E beh, lui alla fin fine ha ceduto, ma la sua simpatia per me, che in verità non è mai stata straordinaria, diminuisce di giorno in giorno. Credo perfino che sarebbe contento se me ne andassi via, giacché con allusioni piuttosto brutali ha domandato se non ho per caso intenzione di concludere la cura con dei bagni di mare. Harry è del parere che tutto sommato egli mi ritenga una truffatrice. È possibile, in effetti, poiché da tempo ha visto con chiarezza che i miei nervi sono perfettamente sani e forse anche che non altrettanto lo sono i miei rapporti con il denaro. È vero che il freudiano a suo tempo lo avvertì per lettera che io lo avrei pagato solo al termine del mio soggiorno, ma sai, processi per eredità e altre simili espressioni suonano sempre un poco truffaldine. La gente non crede a chi parla di eredità campate in aria. Insomma, per farla breve, sempre più me lo figuro come un creditore e questo mi mette a disagio. Forse faccio male a non criticare mai il conto che ogni settimana mi viene depositato in camera. Vedo infatti che altri pazienti, i quali pagano regolarmente ogni momento, reclamano per questa cosa. La mia è un'abitudine che risale ai bruti tempi del passato. Ovviamente, quando uno sa che comunque non potrà pagare un certo conto, non va a verificare giorno dopo giorno quanto esso ammonta. Non posso dunque prendermela con il professore se nutre dei sospetti. Quante volte è già capitato che in situazioni analoghe qualcuno se la sia svignata? È una cosa frequentissima nelle case di cura, non meno che negli alberghi. Comunque, per risultare un poco più credibile, mi sono lasciata consigliare da lui un avvocato, dal quale in effetti sono poi andata. Al momento non è chiaro affatto che cosa costui debba fare per me, ma lo preparo alla possibilità che ci sia qualche cosa da fare in futuro e lo interrogo su mille cose che o so già o non ho affatto bisogno di sapere. Nei giorni in cui gli faccio visita posso almeno gironzolare un poco, andare al caffè, godere di altri analoghi piaceri di cui da tempo sentivo la mancanza. Nel frattempo è comparso qui il sunnominato principe russo, che però, con delusione di noi tutti, non è un principe, ma solo un grande proprietario terriero di nome Balailov. In compenso, come speravamo, è un tipo estremamente bizzarro. E dunque pazienza, in fondo fa lo stesso. Subito lo abbiamo attratto nella nostra cerchia e siamo contentissimi di lui. La sua stravaganza ha due diverse facce. Innanzitutto vuole essere liberato dall'abitudine dell'alcol e in secondo luogo ha con sé una fidanzata che vuole sposare qui. Questo Balailov rappresenta per noi una buona distrazione. Infatti racconta di continuo i fatti suoi e almeno in sua presenza dobbiamo sospendere i nostri discorsi sul denaro, non fosse altro perché, disponendo egli notoriamente di mezzi finanziari colossali, non potrebbe certo capire i nostri complessi. Così, anziché del denaro, ci occupiamo con grande intensità delle sue vicende matrimoniali e del suo alcolismo. Con la fidanzata invece abbiamo tentato invano di entrare in sintonia. Lei si è sistemata in un padiglione a parte, sta molto per conto suo e proprio non vuole apprezzarci. Si ha l'impressione che sia lei ad aver spinto Bala e Lofa a questa cura disintossicante e che passi molto tempo a complottare col professore. Lo stesso Balailov non perde occasione di lamentarsi per la sorveglianza eccessiva alla quale è sottoposto e poiché in certi momenti tutto ciò gli risulta intollerabile, già si è preparato una specie di cantina nell'ufficio di Harry. Quei due hanno infatti trovato un grande oggetto di speculazione. Per un qualche motivo, come ai russi accade sovente, Balailov ha perso il diritto di risiedere in patria. Ciò significa che non può tornare in Russia e perciò ha intenzione di vendere le sue proprietà. Poiché, come gli ha raccontato, esistono in quella zona numerosi pozzi di petrolio, Harry gli ha consigliato di fondare piuttosto una società per azioni, proposta che lo ha mandato in visibilio. Così passano insieme molto tempo nell'ufficio di Harry a fare conti e preventivi e quando giungono a un risultato che li entusiasma particolarmente, su richiesta di Balailov, ci bevono su un cicchetto. E allora tocca a noi sforzarci di frenarlo affinché il professore e la fidanzata non si accorgano di nulla. Lei lo accompagna molto raramente nelle sue passeggiate, preferisce rimanere nel suo padiglione, suona il pianoforte e ostenta disprezzo per tutti noi. 8. Vi ho viziata, Maria, scrivendovi così spesso. Se solo non mi faccio viva per 2 settimane, già siete tutti scontenti. Non dovete pensare che le cose andranno avanti sempre così. Certo che sono affezionata a te e a voi tutti, ma lo sono stata sempre, anche quando avevamo perso i contatti. E se ora vi scrivo queste lettere interminabili, più che altro lo faccio per me e perché dispongo di molto tempo libero. Ma se mi capita per caso di non aver voglia di scrivere, vi prego di lasciarmi in pace. Ebbene, poco dopo la mia ultima lettera mi è arrivato il seguente telegramma del mio coerede. Esequie venute, rinviata, apertura testamento non ancora trovato. Avvocato stima 400.000 pro capite. Il libero docente, che è un uomo insopportabile, mi tratta come se avessi vinto una fortuna alla lotteria. Sono d'accordo anch'io che mi attende un avvenire abbastanza roseo, ma a causa delle difficoltà degli ultimi anni, le mie pretese sono cresciute immensamente e ormai non esiste somma, per inaudita che sia, a causa della quale potrei farmi travolgere dall'emozione. Il bisogno di vendetta è appunto diventato troppo grande. Lucas si comporta con me come Abramo con il buon Dio riguardo ai giusti di Sodoma e mi dice perciò quanto devo tenere immobilizzato e quanto posso spendere in allegria. Io sto a sentire, assorta, quello che lui mi dice, e intanto sogno di un viaggio in Thailandia. Non so perché, ma mi attira moltissimo. E poi abiti, cavalli, case di campagna. Per farla breve, insomma, traduco in cuor mio quelle cifre nelle cose e nei fatti che mi danno gioia. 6 mesi fa il pensiero di un'esistenza sicura avrebbe ancora potuto in qualche modo sedurmi e forse Lucas nel darmi i suoi consigli avrebbe avuto più fortuna. Sistemarsi, vivere con decoro, mettersi tranquilli, ma il destino ormai ha tirato troppo la corda. Sostentamento, base economica e altre simili espressioni sono per me concetti caricaturali che non rivestono più alcun significato. Da essi sono stata dileggiata in maniera così atroce che non posso fare altro che dileggiarli a mia volta. Credi proprio che potrei di nuovo affittare un appartamento, trattare col padrone di casa, comprare dei mobili, assumere dei domestici, vedere donne e uomini che portano in casa latte, petrolio e carbone senza farmi prendere dalle ossessioni più tormentose? Ah, temo che mai più potrò abitare in una casa, ma tutt'al più esistervi con la massima superficialità e cautela e senza stabilire alcun tipo di legame con essa. In rapporto a tutto questo in me si è spezzato qualcosa che mai più potrà essere risanato. Il freudiano, dottor Baumann, ha avuto l'infelicissima idea di arrivare qui proprio in questi giorni. Speravo che anche lui avesse bisogno di rimettersi in salute e desiderasse un periodo di riposo, invece no, arde dal desiderio di fare e ha voluto che mi sottoponessi subito alla sua analisi. Io gli ho detto allora che secondo me era meglio aspettare, poiché forse in base all'evolversi degli eventi avremmo stabilito che non avevo più bisogno di lui, ma non c'è verso. Non si lascia convincere. Fra l'altro è un uomo molto simpatico e qui sono tutti contenti ogni volta che la comunità si arricchisce di un nuovo membro, sicché, volente o nolente, ho dovuto ingoiare il boccone amaro e ho accettato il trattamento. Dopo che Baumann mi ha fatto venire qui offrendosi come mio garante, e io fra l'altro mi sono spesso comportata male, tanto che il professore mi vede come il fumo negli occhi, dopo tutto questo non posso certo andargli a dire adesso mi lasci in pace, ritengo che il suo trattamento sia una buffonata e sono persuasa, adesso ancor più di prima, che le mie pene si possano guarire solo con un buon gruzzolo. Proprio al contrario, sento che è mio preciso dovere vuotare anche questo calice, così come finora ho tollerato gli impacchi e le docciature. Le controversie economiche hanno talora conseguenze imprevedibili e sai il cielo a quante mai cure dovrò ancora sottoporre il mio corpo e la mia anima prima che l'eredità diventi esigibile. All'inizio avere un complesso mi era sembrato una cosa graziosa e raffinata, alla quale si poteva sempre fare appello di fronte a se stessi e agli altri, anziché dire semplicemente sono disperata o fuori di me o di cattivo umore. Ma adesso trovo veramente eccessivo lo sforzo a cui bisogna sottoporsi a causa di questo. E mi accorgo che bisogna lavorare sodo per comprendere fino in fondo cose così intricate. Oh, sei pregata di non pretendere che io tenga sull'argomento una conferenza comprensibile al popolo. Il mio desiderio è piuttosto orientato a destare la vostra compassione che non ad arricchire il vostro sapere. Come dice il termine psicoanalisi, si analizza la psiche, come già ai tempi della scuola facevamo l'analisi grammaticale senza mai comprendere a cosa servisse realmente. In questo caso chi analizza è naturalmente il medico e il paziente non deve fare altro che assecondarlo. Lui domanda, domanda, continua a domandare e a me tocca solo rispondere, il che però non è affatto un compito facile. Si dice che i complessi traggano origine dal fatto che i corrispondenti oggetti, pensieri, desideri e simili noi li allontaniamo da noi stessi. Il termine tecnico è li rimuoviamo, per cacciarli, come ovvio, nel subconscio. Questo talvolta essi non lo sopportano e allora si ribellano e imperversano su nel conscio. Ebbene, il dottore è sempre scontento perché io non rispondo come lui vorrebbe. Ha cominciato le sue spiegazioni dicendo che quasi ogni complesso si fonda sulla rimozione dell'erotismo e a me sembra che solo così egli lo stimi un complesso degno di questo nome. E che anche nel mio caso voglia provare a ricondurlo alla suddetta origine. Più o meno le cose starebbero così. Se una passa tutta o metà della sua vita a inseguire il denaro, per forza deve rimuovere molti altri impulsi più vivi, soprattutto gli impulsi erotici. Con tutta la migliore volontà, non ho potuto sostenere di essermi prodotta in modo particolarmente brillante nella rimozione dell'erotismo. Anzi, sono sicura che sarebbe stato meglio sia per me sia per le mie finanze se lo avessi fatto di più. Le cose dunque non stavano così e non siamo riusciti a metterci d'accordo. Gli ho poi dovuto raccontare alcuni episodi della mia vita, ciò che lo ha nuovamente deluso perché non è riuscito a rintracciare in me alcunché di anomalo, psicotico, nevrotico o come altro diamine lo si vuole chiamare. Che ruolo ha svolto il denaro nella mia infanzia e nella mia adolescenza? Oh beh, a quell'epoca dovrebbero infatti risalire la maggior parte delle strutture complessuali. Non ha svolto alcun ruolo, mai e poi mai. Come saprai, esistono dei bambini molto interessanti che rubano o imbrogliano senza averne affatto bisogno. Per esempio, trafugano delle banconote, le convertono in monete d'oro e poi ci giocano. Ma io no, nei miei ricordi non ho trovato niente di simile. Quando eravamo piccoli noi pensavamo che fosse inutile e anche da poveracci occuparci di questioni di denaro e, beh, guardavamo con disprezzo dall'alto in basso altri bambini che questionavano su quanto potesse valere il patrimonio dei rispettivi genitori e che erano informati su questo genere di argomenti. E anche in seguito è stato in fondo lo stesso. Io? Bisogno di soldi? Ma no, non può essere una cosa seria e dovrei anche procurarmeli da me? È solo uno scherzo di cattivo gusto di fronte al quale mi tocca abbozzare fino a quando e purché non diventi troppo pesante. E era legato a forti sentimenti di dispiacere? Fu l'intervento del dottore. Ah, sì, veramente sì. Ebbene, a poco Bauman ha trovato una traccia. Al contrario di come pensava all'inizio, era stato rimosso il denaro in quanto tale, non altre cose. E dunque, malgrado tutto, sono davvero un po' anomala. Grazie a Dio, perché a me piace molto che gli altri siano soddisfatti di me. Si è quindi stabilito che soffro di un complesso del denaro allo stato puro e che l'erotismo non c'entra affatto. Dopodiché mi è stata data all'incirca la spiegazione seguente. Mediante una malattia, che per lo più è nervosa e nel mio caso è stata caratterizzata da acute difficoltà finanziarie, le cose un tempo rimosse diventano improvvisamente coscienti e vengono ora enfatizzate, vedi le crisi economiche. A rivangare tutti questi ricordi mi sentivo malissimo, ma ho dovuto resistere, poiché le vicende che hanno influenzato il complesso devono essere riprodotte, ossia rivissute in maniera cosciente, affinché il medico possa fare in modo che noi ce ne sbarazziamo. Poi, a mia volta, ho cominciato a fare domande. E se malgrado tutto la faccenda dell'eredità dovesse finire male, non si può mai sapere. Come faccio a spiegarlo al professore? Lei cosa pensa che, essendo un mio creditore, ah, ecco qui le tipiche idee angosciose legate al suo complesso. Ha risposto Bauman tutto contento. Già, e le ho anche in relazione a lei. A me? E certo, in questo posto lei si è assunto in certo modo la responsabilità per me e, a essere sincera, mi tormenta il pensiero che possa andarci di mezzo nel caso in cui. Bauman mi ha chiesto allora informazioni dettagliate sull'eredità e su vari altri fatti e l'argomento ci ha talmente appassionato che si è fatto tardi e non abbiamo più potuto continuare la nostra seduta. Comunque, ogni giorno, inesorabilmente, egli mi chiama a sé e mi trattiene per un po'. È proprio una croce. Ma devo far finta che la cosa mi serva. La guarigione sarebbe infatti provocata dal nuovo atteggiamento che l'analista induce nel paziente. Nel mio caso ci sono soltanto due alternative. E per rendersene conto non c'è davvero bisogno di uno psichiatra. O la mia energia rimossa per pigrizia e amore della vita comoda viene di nuovo mobilitata in qualche acconciamaniera indirizzata a far soldi, oppure mi metto in mente che il denaro sia qualcosa di irrilevante, di cui si può benissimo fare a meno. Come è naturale, sto qui riproducendoti un estratto molto succinto di tutta la storia che, raccontata dal dottore, suona proprio bene, esauriente, circostanziata, illuminante. Io di lui non so che farmene, però sono tutte cose che potrei benissimo dirmi da sola e nulla cambierebbe lo stesso. Mi piacerebbe di più chiacchierare con lui di altri argomenti, appena posso gli aizzo contro Harry e viceversa. Harry è più bravo di me e infatti prende sul serio l'analisi come se fosse una delle sue speculazioni. A me sembra che egli stia prendendo in considerazione tutte le strade che possano portare al risanamento di un sistema nervoso logorato per fondare poi qualcosa di nuovo o almeno eliminare uno stato di intima instabilità. Ma di questo basta e strabasta. Non vorrei proprio che cominciaste anche voi a scoprire i vostri complessi e vi metteste in mente di saperne sempre di più. Oltre alle pene che mi tocca sopportare in questa casa di cura, ci mancherebbe ancora che dovessi scrivere delle dissertazioni. 9. Di nuovo un telegramma del mio coerede. L'avvocato si sarebbe sbagliato. Sarebbero al massimo 300.000. Ultimamente i suoi resoconti sono diventati un po' confusi e consistono per lo più in congetture telegrafiche. Sai il cielo se adesso hanno trovato il testamento e se è vero, come dicono, che non l'avevano trovato subito. A noi questo fatto sembra un po' curioso, ma il tutto si svolge a una tale distanza che proprio non riusciamo a farcene un'idea esatta. Comunque non è possibile che il testamento sia già stato aperto, perché se no il coerede dovrebbe pur sapere qualcosa di più preciso. Lucas ritiene la cosa molto inquietante. Non si fida completamente né del mio coerede né delle altre persone coinvolte in questa storia e si è perfino offerto di prestarmi una certa somma perché io possa recarmi in loco di persona. No, grazie tante. Me ne guarderò bene dal rendere il denaro più riottoso ancora, immischiandomi direttamente in questa faccenda. Ah, si è visto che già 100.000 marchi si sono ribellati, proprio quei 100.000 che secondo le indicazioni di Lucas dovevano restare a mia completa disposizione. E già questo, secondo lui, è una vera follia. Adesso, però, è assolutamente necessario che lei metta a frutto l'intera somma, altrimenti ha dichiarato Lucas quasi con furia, e che cancelli il viaggio in Thailandia. Aspetta, è intervenuto Harry, vedi prima come si mette l'affare del petrolio. Se davvero la zona è così ricca di pozzi come noi supponiamo, le azioni andranno alle stelle in brevissimo tempo e la gente si scannerà per ottenerle. È comunque opportuno assicurarsi un buon numero di azioni non appena si costituisce la società. Lucas ha alzato gli occhi al cielo, è una sua abitudine ormai ogni volta che parla Harry. Non vuole, caro Harry, provare un giorno o l'altro a farsi analizzare dal dottor Bauman? È stata la sua domanda. Oh, abbiamo già cominciato. Trovi che serva a qualcosa? Ho chiesto io angosciata. Ma proprio nel momento in cui Harry cominciava a sfogarsi è arrivato Bauman e subito Lucas si è rivolto a lui. Come sa, dottore? Io sono soltanto un profano, gli ha detto, e la psichiatria è un campo che mi è del tutto estraneo, ma se lei dovesse riuscire a riportare alla ragione questi due signori, entrerei subito nel novero dei suoi più fervidi seguaci e farei per lei un'enorme propaganda. Nella città dove insegna, Lucas è una personalità molto influente e ha buoni rapporti con la gente più in vista. Bauman arde dal desiderio di fare carriera e di prendere la direzione di una casa di cura dove con il suo metodo si otterrebbero guarigioni meravigliose. Lui, Bauman, ha risposto con un sorriso ammiccante, sicché nessuno dei presenti ha potuto sentirsi ferito, ma Harry ha soggiunto: «Lasci fare a me. È la cosa migliore. Una società produttrice di alluminio è fallita e io sto trattando l'acquisto di alcuni immobili che potrebbero costare una cifra irrisoria. In brevissimo tempo avrò messo insieme gli azionisti. Balailov, per esempio, non appena preso il via l'affare del petrolio, entrerà anche in questa impresa, ci potrei giurare». Lo sguardo di Harry assunse man mano quella strana fissità che talvolta gli è così caratteristica. E poi si mise a far conti preventivi, insomma, soggiacque al suo complesso. E Bauman disse che quello era il momento giusto per una seduta analitica, al che noi altri ci allontanammo per discrezione. Sono già passati vari giorni. Harry è partito ieri per la Russia perché vuole vedere di persona la zona petrolifera. Il segretario di Balailov lo accompagna con funzioni di interprete, giacché Balailov fa varie persone al suo seguito, e cioè il suddetto segretario, due domestici e un anziano pope russo che è stato ai tempi il suo precettore. Anche il pope si trova qui per essere curato. Forse per alcolismo, ma non ne siamo sicuri. È un uomo pacifico, pieno di dignità, che non esce quasi mai dalla sua stanza e non parla nessuna lingua viva all'infuori del russo. Lucas e i medici parlano con lui in latino e anch'io qualche volta cerco una frase latina tra i miei ricordi dell'ora di religione o delle lezioni di grammatica dei miei fratelli perché desidero dirgli qualcosa di gentile, ma non riesco quasi mai a trovare le parole giuste. Gottfried è stato dimesso dalla casa di cura mercoledì scorso con l'intesa che ritornasse a casa, ma lui invece ha trovato un nascondiglio in città e ieri, senza dir niente a nessuno, è partito con Harry verso la terra del petrolio. Sapessi, era proprio felicissimo. I suoi genitori hanno telegrafato già 3 volte e nessuno riesce a capire dove sia finito. Pensa che io, per una stupida disdetta, ho ricevuto proprio adesso un telegramma dalla Finlandia. Finalmente ritrovato. Apertura rinviata per motivi formali. Il professore mi ha pregato insistentemente di ammettere che il telegramma era in rapporto con il ragazzo disperso. Io ho protestato e in perfetta buona fede gli ho detto di no. Egli non mi ha creduto e alla fin fine, solo per tranquillizzarlo, gliel'ho dato da leggere. Ma a quel punto la situazione è ulteriormente peggiorata perché lui si è convinto fino in fondo che Gottfried in effetti sia stato trovato in Finlandia, dove si sarebbe suicidato o sarebbe rimasto vittima di una disgrazia e dovrebbe perciò essere sottoposto ad autopsia. Questo sarebbe il significato nascosto della frase apertura rinviata per motivi formali. Nella sua accesa fantasia, deformata dalla professione medica, tutto gli è parso chiarissimo. Ma della firma, il cui erede, essendo mio marito, porta il mio stesso nome, e del fatto enigmatico che io dalla Finlandia avrei telegrafato questa notizia a me stessa, non è comunque riuscito a farsene una ragione. Io allora sono scoppiata a ridere e ho riso così a lungo che lui si è inviperito ancora di più. Ma come? Da settimane e settimane. Gli avevo raccontato di una controversia per un'eredità e ancora il testamento non era stato aperto. E io sarei sposata con quel signore. Finora mi ero sempre presentata come una signora divorziata e adesso non potevo davvero pretendere che qualcuno credesse a una sola parola di quello che stavo dicendo. Insomma, è stata una scena proprio carina e alla fine ho dovuto ammettere di sapere in effetti dove si trova il giovanotto, il quale, di qui a non molto, lo dirà personalmente ai suoi genitori. Il professore alla fine è rimasto senza parole e quindi mi ha spedito una lettera su in camera. Nella lettera mi chiedeva la cortesia di andarmene, nel caso ritenessi di averne ancora bisogno, in un'altra casa di cura. Ma Baumann, sia pure assai faticosamente, ha rimesso le cose in carreggiata, del che gli sono stata molto grata. Dove potrei andare del resto? Dunque rimango qui e dopo il finimondo che si è scatenato mi godo intensamente un meritato riposo. Ah, è scoppiata l'estate, fa un caldo pazzesco. Poiché nessuno di noi ha qualcosa da fare, passiamo quasi tutta la giornata sedute in terrazza. Al mattino siamo ancora abbastanza di buon umore, leggiamo i giornali o conversiamo, ma più tardi è un vero mortorio. Tutti quanti ciondoliamo qua e là sulle sedie pieghevoli e ciascuno pensa di tutti gli altri che siano rimbecilliti, chi più chi meno. Lucas sostiene, per esempio, che gli basta per sentirsi nervoso vedere che laggiù sul lago passa un battello a vapore o svolazza un gabbiano. Secondo lui è uno sperpero inaudito di energia. Nelle giornate particolarmente afose ci si intende soltanto con la mimica e i gesti, oppure nel cosiddetto linguaggio della calura. Ciò significa che si lasciano cadere o si accennano soltanto tutte le parole e le sillabe di cui per un qualche motivo si può fare a meno. Il livello intellettuale si è quindi lievemente abbassato. Il nostro principale argomento di conversazione sono gli altri pazienti che osserviamo attentamente e, purché ce ne forniscano un pretesto anche minimo, ci piace soprattutto prenderli in giro. Ci è parsa perciò una vera fortuna quando ultimamente è arrivato un nuovo paziente con una serie di strane particolarità. Si veste di nero anche col caldo più tremendo. I capelli sono neri, nera la barba, gli occhi neri come il carbone. Sai, le prime volte che ad un tratto lo vedevamo apparire sulla bianca scalinata di pietra, ci sembrava di avere davanti il demonio in persona. Ma nel momento in cui si è seduto a tavola e gli è stato servito il pranzo, ciò che ci ha colpito più di tutto è stata l'espressione del suo volto, che è di una imbecillità davvero sconcertante. Ci siamo trovati d'accordo nel dire che mai avevamo visto qualcuno guardare gli oggetti o le persone in una maniera così totalmente idiota come quella di questo signore dall'aspetto demoniaco, quando guarda il cameriere che lo sta servendo o anche il suo piatto o la bottiglia dell'acqua minerale. Ha l'abitudine, tra l'altro, prima di cominciare a parlare, di sbattere le mandibole un paio di volte lentamente e con aria assorta. Insomma, la sua presenza è per noi un motivo di grande divertimento. L'abbiamo soprannominato l'idiota in nero e godiamo intensamente ogni volta che ci guarda con quei suoi occhi così stupidi e vuoti. Ha l'aria di nutrire per noi un forte interesse e di avere una gran voglia di conoscerci più da vicino. Già. Così passano i giorni e noi tutti non vediamo l'ora che ritorni Harry perché Balailov ci dà proprio un gran da fare. Come già ti ho raccontato, egli ha in mente di sposarsi e si immagina che qui, alla frontiera italiana, il suo progetto sia più facile da realizzare che non altrove. Io temo invece che in questo si sbagli, in quanto entrambi, lui e la fidanzata, sono stranieri e lo sono a tal punto che mi sembra quasi impossibile che riescano a mettere insieme i documenti necessari. Prima di tutto Balailov è senza passaporto ed esiste soltanto una vaghissima possibilità che in tempi ragionevoli ne ottenga uno grazie all'intervento di qualche conoscente. Inoltre la fidanzata, quel che si dice, è nata in un albergo in cima a una montagna e non è in grado di dire quale fosse l'origine dei suoi genitori. Risultano pertanto vani gli sforzi che tuttora vengono compiuti per stabilire la sua nazionalità e, giacché Balailov non capisce una parola d'italiano e si irrita facilmente quando tratta con le autorità, si rivolge a noi in continuazione per avere dei consigli. Giorno dopo giorno ci tocca riesaminare con lui l'intera questione, dalla A alla Z, meditare vie, strumenti nuovi, ideare espedienti e lettere coi relativi annessi e connessi. Invano ho provato a dirottarlo sul mio consulente legale, che sarebbe certo in grado di aiutarlo molto meglio di noi, ma anche con lui veramente si è creata a poco una situazione assurda. Pur di evadere dalla casa di cura per un paio d'ore, sono costretta a fargli visita 2 o 3 volte alla settimana e a rivolgergli una quantità di inutili domande. Sono sicura perciò che ormai egli mi ritenga la più grande oca che mai sia apparsa sulla faccia della terra. Baley lo fa comunque uno spiccato complesso avvocatizio. Sostiene che gli avvocati sono tutti dei maledetti furfanti che fanno sempre e soltanto i loro sporchi interessi. Si dice che abbia avuto con loro delle belle esperienze legate forse anche alla sua origine russa. Ah, non è facile stare al mondo, cara Maria, e con questo sospirone per oggi ti lascio.